Adesso che non ci sono più problemi di par condicio, posso rendervi partecipi di un dubbio che da qualche tempo mi assilla. C'è una mia amica, una che di politica diversamente da me se ne intende, che sostiene che Berlusconi, sul piano della perspicacia personale, come dire, è un po' sopravvalutato. Anzi, per dirla tutta, che è un po' scemo. Io le rispondo che a me sembra anche più intelligente del necessario, che in tutta franchezza è soprattutto dalla nostra parte della barricata che mi sembra che l'intelligenza scarseggi un poco, ma non c'è verso di convincerla. Per lei, uno che ragiona come quello lì, che ha quelle idee sul mondo, sui suoi avversari, sul suo ruolo, non ci piove, ma intelligente proprio non è. È uno scemo. E se ha perso il governo per lo 0,01%, vuol dire che se lo merita. Ma, insomma, sapete anche voi che questi problemi, come si diceva una volta, sono di lana caprina, no? Le definizioni dipendono dai criteri di cui ci si serve, più o meno consapevolmente, e non hanno mai valore assoluto. La mia amica ha una certa tendenza a misurare gli altri sul metro della propria ombra, come dice il poeta, e probabilmente pensa che uno, per essere considerato intelligente, debba per forza essere di sinistra e meglio se in gioventù ha fatto parte di Avanguardia Operaia. Non ignora naturalmente che il Silvio Nazionale ha fatto una brillante carriera imprenditoriale, che è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, che si muove sul piano politico con micidiale efficienza, ma in fondo queste cose non le interessano. Certa del proprio sistema di valori, riserva l'apprezzamento intellettuale a chi lo condivide. Vista sotto questo punto di vista, ha ragione lei. E non le si può porre nemmeno l'accusa di essere intollerante, perché la tolleranza, che ne pensi Ratzinger, non si identifica col relativismo, e per ammettere la liceità dei valori altrui non è obbligatorio essere insicuri sui propri. Liberissimo il signor Berlusconi di credere, se davvero ci crede, di essere un genio, le cui ricette politiche non possono che garantire il bene della nazione, e libero in me il 49,09% degli elettori di condividere tale fiducia. Ma questo non significa ovviamente che abbiano ragione loro. Non l'avrebbero neanche se fossero il 50,01. Il successo in questo mondo imperfetto non garantisce altro che la capacità di avere successo, e ragione e intelligenza sono tutt'altra cosa. Si trovano senza difficoltà alcuna persone intelligentissime che non hanno il becco d'un quadrino e sono affatto irrilevanti sul piano politico, ed esistono magnati e potenti del tutto lacunosi quanto a quoziente mentale. Se sono arrivati dove sono arrivati dipende da una quantità di motivi che andranno verificati caso per caso. Vi dirò. Io personalmente continuo a credere che la capacità di pianificare le proprie azioni in vista dell'ottenimento di un dato fine sia indizio non lieve di intelligenza, e che in questo il Presidente del Consiglio uscente, anzi uscito, sia un maestro assoluto. Ma è ovvio che ciò non esclude che la sua visione del mondo mi sembri sbagliata, gravemente deficitaria, ed è altrettanto ovvio che non si può risolvere il problema distinguendo un'intelligenza pura, propria di chi riesce in un modo o nell'altro ad attingere alla verità, dall'intelligenza puramente pratica di chi sa badare ai propri interessi, quella che molti preferiscono definire come astuzia o furbizia, o con analoghi termini svalutativi. Quei termini oltretutto comportano una sfumatura di giudizio morale, per la vecchia storia della golpe del lione, no, vi ricordate, e che con il nostro problema non ha assolutamente nulla a che fare. Allora, chiamiamola come vi pare, ma non si può negare che la capacità di ottenere quello che vuole Berlusconi ce l'ha. Eppure, strano ma vero, le elezioni le ha perse. E non certo perché i suoi antagonisti si siano dimostrati più furbi o più intelligenti di lui. Forse gli si potrebbe rimproverare d'essere stato un po' troppo furbo, perché a ben vedere ha vinto la campagna elettorale con una strategia del tutto razionale e piuttosto intelligente, quella di sfruttare la propria posizione di vantaggio e di eludere le regole studiate per imbrigliarlo. ma non ha potuto coglierne a pieno i frutti perché con una tipica furbata di basso conio, quella di cambiare la legge elettorale all'ultimo momento, aveva creato una situazione in cui il centro-sinistra ha potuto assicurarsi il controllo di entrambe le Camere al di là dei dati numerici. Come a dire che la furbizia, con quel tanto di sleale, di disdicevole che il termine comporta, alla fine non paga. Che non sarà vero, temo, non è vero. Ma per consolarci in questi tempi grami possiamo far finta di crederci.